ci mette la batteria, la piastrina nuova e poi ci prova. E poi ci prova. Se c'è a cambiare la connessione, ci cambia la connessione. Senz'altro alimentandolo distorgeva, forse distorgeva per quello, perché è alimentato a corrente dell'alimentatore, e distorgeva per quello, penso. Sì, sicuramente sì. Sicuramente sì, Anto. Aspetta, prova a fare lo smetto. No, non l'ho provato. Vabbè. Quando vuoi provalo. Così vediamo se è uguale, se le trazioni sono uguali a quelle che ti segnala la radio, capito? Non se c'è differenza. Posso sempre attaccarlo, intanto un attimo. Il cavetto ce l'hai già attaccato, c'è scritto antenna, attacchi l'antenna e quel cavetto che ti ha dato lo attacchi al baracchino. Adesso lo proviamo. Ma secondo? Intanto io sto provando sto microfono. c'è scritto ex. Eia. Faccio più forte stasera, tu. O sono io, Leo, che c'è un bel ricezione. C'è un bel forte di segnale. Forte. Sto guardando se si muove la lancetta. No, adesso si muove la lancetta. No, adesso è ferma la lancetta. Lancetta di cosa? La radio? No, non quella della radio, no. Quella dello smetto. Ferma, 1-1. Sì, 1-1 è ferma. Gracias. prodotto. E sì, io sfrutto un pochino di quel prodotto che ho sfruttato a questa radio, si propone l'accusa. Ci su come dentro questo microfono, da fare paura. Da fare paura, sembra mangiato dai topi. Addirittura. È tutto manivato, tutti i figli aiuti a storci. Gli omicidi sono lì sempre, sto mettendo a posto. Niente, io vi lascio perché domani mattina alle 4 cambi sono fissati, vediamo la prossima. Va bene, va bene. Salutone di Mauro, dai. Tutte alle prossime, alle migliori. Buon trovaco per domani, avanti Claudio per Mauro. Anche mi ha toccato la mattina, quindi mi manca mezz'oretta, mi sto stimando le cose prima di volare andare anch'io. Ciao Nino, saluti a casa, grazie per essere entrato, quando vuoi siamo qua, non c'è problema. E ok, già ci sentiamo di più. Ma a caso poi ci vediamo a mettere una cosa quando l'unica mattina, grazie. E io ci sono un approvato, quando vuoi, Mare, quando vuoi, mi fa piacere. Mi fa piacere, ci facciamo un chiacchiere, ci beviamo una birra assieme, tanto già lo sai dove frequento io, non c'è problema. Quando sei libero fammi un colpo di citofo. Ciao Mauro, alle prossime. Ciao, ciao. Eia. L'ho visto piccolino Mauro io. Siamo amici di famiglia, il padre, la madre, tutti. Ci conosciamo una vita. Ok, molto bene, a me, tanto ho iniziato a eliminare quei fili che mi va a dire nessuno è fifo, solo i fifo. tutto messo male, tutto messo male, mannaggia. Troppe male, troppe cose, non vanno bene. No, ma a me quando vedo queste cose mi scino le cose, capito? Non ci può. Mettiamo la batteria, ci mette la batteria, si fanno le cose fatte bene. Poi c'è il cavetto pronto, andiamo quasi, già vado, aspetto. Scherita, cazzo. Io, pure noi, ragazzi, pure noi. Vabbè, lasciamo perdere. Non riesco a capire come si possa dare un 12 volte a un microfono che lavora a 9 volte. Cioè, ti rendi conto che puoi fare male, non è una cosa così. Niente dolore. On, off, questo microfono funziona. Vabbè, lo vedo domani questo, comunque già in fase di andatura. Già va bene. Sì, ho detto che era incasinato forte il microfono, era troppo incasinato, capito? Troppe mani ci hanno messo sopra. Vabbè, non è il problema di metterci le mani, per carità, io non voglio. Ma sono modifiche che devi stare molto attento, capito? Non è che. Sui microfoni soprattutto c'è un sistema molto delicato, perché i 9 volte che tu dai devono essere in continuo. Un'alimentazione così diretta all'alimentazione alternata, poi in parallelo, come sono quei cazzo di cosi, lo bruci. Sì, già lo credo che si brucia. Ehi, come mi ricordatelo domani mattina, Clare, o calma domani mattina, domani sera un calma, o quando vuoi tu, non c'è il problema. No, l'obiettivo non è che sia l'obiettivo, poi quello lì ti ripeto, l'ho già visto, l'ho già preso in mano, ho già attaccato tutti quei fili dell'alimentazione che hanno messo a scorci, e adesso ho dato la piastrina sua, porta batteria, nuova, pronta a attaccare la batteria. Ho visto che con la batteria la continuità c'è, 9 volte ci sono, la luce del microfono accende, perciò già è una cosa fatta. Poi per quanto riguarda la connessione, qua lo vediamo dopo. Adesso mi voglio rendere conto se c'è qualche altra interruzione, però a voi non aggiungo neanche, perché poi questo tester non è che funzioni tanto bene. Mi porto il mio domani dall'altra macchina. Lo facciamo, capito? Sì, se non salgo anche quello che ho io, capito? Quello si chiama digitale, se non vado errato, porto quello. Un test non è un problema, dici? Sì, non state sia a testa, state. pochettino di nastro. Ahia. Ecco, viene a mettere provvisoriamente un po' di nastro, poi prendere degli spinottini e mettere un capolavoro, diciamo, per non stare questi nastri così. No, momentaneamente poi metto le bananine. Sì, quello, rimettere un po' le bananine e ci farà bene, dai. Anzi, ti ha fatto anche il tuo pulci. Sì, ci ho detto che c'è un problema. Ci sono le cose da fare. Ma no, voglio la mia passione, ma io vedo a casa, è che se non mi fa quell'altra base, quell'altra scrivania, lei non puoi appoggiare, perché c'è un casino. Sì, mi fai ragione. C'è neanche quel banco che ti brillano gli occhi solo a vederlo. Quando farai l'altro sarà ancora più bello. Beh, quando c'è l'altro non si discute, eh. Quando c'è l'altro tavolo, allora un'altra cuba. Io sono distante. Tanto che sto mettendo a posto, perché a mattina lo c'è, perché io non mi piace. Ecco qua, questo è tutto ok. Ho messo in sicurezza quei fili che ho sperato. Poi mi metto due bananette e me lo tengo giusto per alimentare, vedi, la radio, così per fare delle prove, eccetera, eccetera. Sì, conviene sempre averlo. Un attacco del genere, vedi, oggi ti è servito e hai dovuto tagliare i fili. Mi è dispiaciuto anche a me, la verità, però era giusto per fare questa provetta. No, non ho fatto mai c'è il problema, dovevo già farlo, capito? Dovevo già farlo, anche perché lì c'è l'alimentazione costante, 13,8, non si muove, perché l'alimentazione che arriva dall'alimentatore, quello della Kenwood, perciò è buono così l'alimentazione, perché quello quando stai facendo un lavoro e tieni la portante, tieni e c'è lo strumento eccetera esterno, l'alimentatore va in protezione, se c'è qualcosa, c'è la ventola che si attacca quando scalda, capito? Va molto meglio. Ok. La cosa bella è che appunto c'è l'alimentazione diretta, quindi vabbè, ma ho già fatto quel lavoro lì, allora l'altro giorno devo prendere due fili, invece l'abbiamo fatto stasera, però le metto due bananine e lo lascio dietro il coso, la base, così quando mi serve c'ho l'alimentazione sempre pronta, capito? E appena mi preparo l'altro tavolo, oggi gli hanno detto che è incasinato, sta finendo il lavoro, ma io lo sapevo già. Abbiamo fatto male a non farli tutti e due assieme, il materiale ce l'abbiamo, però non è un problema, dai. Appena è pronto l'altro tavolo sarà organizzato molto molto meglio, se no devi spostare tutto, devi lavorare male. Sì, infatti non si può lavorare in un unico tavolo, diciamo, ma adesso quando farà quello già tutto ok, dopo di lusso è perfetto. Gappa e per Alfa quello lì già va bene, non è che ce ne abbiamo qua a posto, no? Penso che ce ne sia a voglia e poi ne acquisterai ancora di più quando farà quell'altro tavolo lì, è omicidiale, bellissimo, proprio bello da vedere, da occhio, bello. D'altra parte faccio, diciamo, al computer e poi tutta la base a disposizione e lì metto un alimentatore stabilizzato da 6 a 24 volts, lo metto per fare proprio qualsiasi tipo di lavoro, con i connettori, il pannellino già attaccato alla fatemi fare i buchi lì per mettere i connettori rosso e nero con l'alimentazione che non si vede, che va attaccata sotto l'alimentazione. C'è un bel progettino anche per l'altra parte, E mi serve giusto per fare lavori così, magari vedi, mi capita che c'era col tuo baracchino una cosa, allineare una radio, ti metti sull'altro banco e non sposti niente, siamo qua c'è a spostare i microfoni e fare un sacco di casi. Si verrà, si verrà, lasciate una termina Giulio, c'ha già tutto lui, lo mettiamo in lavorazione anche l'altra parte, lui. Il posto ce n'è a regalarne, cioè ci possiamo muovere tranquillamente in due, in tre, anche in quattro qua. Sì, sì, quello che è tra poco lo fa, tanto stavo andando a Papai. bene, andrà bene. Cos'è che lo rientrava? E tu mi dici qua, sì. Sì, io ho già caricato. E tu, mangi la tua. Sì, una cosettina veloce così. No, non sono preso dalle cose, io no. Non volevo così facilmente, poi mi ha distratto. Mi ha ritirato la telefonata. Siamo stati pur certo che me l'avrei finito col microfono. Sono arrivato a Vancouver, cosa fai quanti giorni? La sua mattina era stata un po' prima. E cavolo, e farmi la barba. E niente, poi vado nuovamente lì dove siamo andati stasera a Montella e faccio quella manovra. La facciamo, vediamo. Però la facciamo domani mattina. La gira noi la cosa di quella manovra. Non me la fu tenuta. Sì, infatti. Poi già era tutto dopo, non c'era questa paura che ti hanno messo in testa, che stava traboccando bomba. Poi abbiamo verificato e tutto era a capo, allora c'era positivo al 100%, cosa molte volte mi hanno chiesto tra i vetri, sì. E un po' che lui è quello della campagna, chissà cosa ha visto, e quindi lì ci stava tracimando, non è che stava tracimando, lì corre che ne tracimenti ha detto. Ci siamo andati, io non ho visto niente, da nessuna parte da quattro cimano. La vasca a 3 metri, si è mancata ancora 40 cm per tracimare. Non dice la guru, non dice. Ma è lo buru che hai fatto la rete, ma. Infatti. Ha giocato alla mini, una moto, e ha sentito i gocci d'eva, ha detto vabbè, in tempo mi sono stavo rientrando. Stava piovendo, ma sento via, no? No, ma stava piovendo, poi avevo preso la discesa di via Milano, un paio di gocce, ho detto vabbè, ci siamo, eh. Io non ho problema. Ci siamo passati al portico e ti avrei portato io a casa. Domani mattina, come facciamo la lettura, sono sceso a prenderti, avete preso la moto, poi sono sceso a portarci. Non hai visto un problema, stavamo ai funditi. No, ma ho visto che ho abbassato il vento, ho abbassato il vento, quindi bisogna stare attenti e magari stanotte mi scudi che cucci vada. Ehi, fate un soldo a mangiare, ma sicurezza nella mia antenna, la tua interna, non si sa mai, anche voi mi dirà che cosa. Non si sa mai, prevenire senza mi curare. Anche io, hai visto quel commutatore che ci ha attaccato al muro? Sì. Lì c'è neutro. Hai visto che c'è un barilotto con un condensatore attaccato. Io metto lì e mi stacca praticamente l'ingresso sulle radio. Ho fatto un bel lavoro, tu. Ehi. Stacca l'ingresso sulle radio, capito? Se c'è fulmine che arriva lassù dall'antenna, ai cavi stacca direttamente a quel condensatore, scarica lì e non arriva alle radio. Sì, no, roba capolavoro. Non si vede un filo, non si vede niente, è veramente un capolavoro. Bene, un bel lavoro. Mi è fatto un certo criterio, una certa passione, un certo tutto, non è vero, no, quando sono fatti bene i lavori, non ci sono più di volante, cose, è positivo, dai, è tutto positivo. La tua stanza è meravigliosa, verità si ricca, è composta bene, è ordinata, tutto, non c'è un filo fuori posto, bella, una bella stazioncina, bella veramente. Bisogna fare mai le cose, sennò questo è un casino. No, beh, si vedono i cavi d'ingresso, l'ingresso quelli che entrano, ma poi non li vedi più. Vanno al commutatore, poi sono tutti dietro i cavi, non si vede niente. C'è chiusura di cavi sotto, non sotto la scrivania non c'è niente. Dietro la radio sono i cavi, la scrivania no. Poi ho fatto separare le due linee, c'è il salvavita, lì stacchi tutto, da lì stacchi tutta l'alimentazione. E tu se non fai bene, cattolamini, a voi fai un casino, dicevi una cosa, no? È dispassione, qui e là, io non aggiungi di non muovi, deve essere tutto perfetto. Si non ferma. Sì, no, poi la quando è ordinato è tutta l'altra minestra. Tutto si è stavato bene, nei fili volanti, controvolanti, e così voglio la stazione loro. Bella, bella. Ma no, dopo sta bene, ahi, si è ordinato. Bella veramente. Piano piano, ancora già ne ho da fare. Devo prendere anche le cartine dall'altra parte. Non c'ho mai tempo, devo mettere le cornici a volte prese, sono sui massarda. Non ho più tempo, io lo vedi che c'ho gobo. Quando sai che sei rilassato e ti metti a fare qualcosa, c'è sempre la telefonata che ti blocca e qui e là, arrivi qua. Sì, è vero, quando è così è vero. Purtroppo il tuo tipo di lavoro richiama quello, cosa ci vuoi fare, no? Purtroppo così. Vabbè, pazienza, se quello è, quello facciamo, in attesa che si sblocchi la situazione. Non è un problema quello. Già va bene, dicono la Vaghero. Io non si è sentito Sandro Conrad, come mai? Ha detto che entrava. Ok. E domani quindi, tra poco sento lì. Ma il video c'era un altro, vogliamo? Capolazzi, va, dice qua. Sì. No, se sono passato alla finestra, basta. Alle 5 meno 10 la facciata e te che tutto siamo, con un bar, siamo a questo punto qua. No, ma i giorni di mattina avete parlato e sono tutti già armati, sono pronti da intonaccare. E è finita, è rimasto contento, non avete detto va bene, allora ci vediamo domani. Arrivederci, buonasera. E niente, è così. Arrivederci, grazie. Marco Mario è di pochi paraoli, in Sciuburu, uno di quelli che sta sempre dicendo e facendo, già va bene. Sì, di solito prima di avere quello che ho avuto, lì era 24 ore su 24 sempre lì, lui era sempre nato nella mia vita, sempre nato. Adesso poi da quando ho avuto quello che ho avuto, mi sono riservato a casa, capito? Sta uscendo poco e niente. La fortuna sua è che e di fronte al palazzo che stiamo facendo noi, scusate che lui si appaccia dal terrazzo a casa sua, si è deciso di dire qualcosa, oppure scende a qualche volta. La mamma già ha cambiato parecchio, guardate, prima era lui, dove lei era otturi, mamma mia, sempre a parecchio. Sempre mi serve parlare, va di là in breve. No, non mi piacciono la gente così valente che non si fida e fa i mezzi ai piedi. Va bene, una telefonata, ma fanno a me, sì, si parla, si discute, però è utile che fai mezzo ai piedi, lasciami lavorare e a futidine. Tutto il resto, se ci sono problemi, ti avviso io, no, divini tu a rompermi l'anima. Sì, infatti, quello che dico io. È quello che dico io, tanto lo vedi, lo sviluppo c'è, si sta andando avanti, si sta facendo anche oltre quello che ce la fare, non vedo motivo di stare lì a rompere le scatole. Stai a casa, vai a fare un giro, pigliati la moto, pigliati la macchina, pigliati due gruppi, ma non stare lì addosso, tanto che l'operaio, più li stai addosso e meno te ne fa. Lì ci vogliono, dimmi, non va, sempre in Chivia, ci vogliono a fare come ti gira i padri, ci vogliono ancora a terra, invece se c'è la fiducia si lavora più tranquillamente, senza nessun problema. è normale che così, no? È più che normale. Vabbè, stavo guardando la spugnettina, quella microfono, ma invece quella che c'ho io è troppo grande, gioca, devo averne qualcuna piccolina di quelle anche, devo averle, ne avevo comprate, non ricordo, le ho messe, ma c'era gatto, tutto pulito già, quella da nuovo, tutto pulito bene con l'alcol, e poi ti sistemo quella, quel piantone, tutto a ridurre. È un macello, guarda, io non so come fanno a trattare i microfoni del genere. Io, guarda, ho questo, ma l'ho trattato meglio anche di tutte le cose. Anche così, cioè, non vedo il motivo di dover straziare, fare come l'hanno fatto con il microfono, ma che non pare mai con il microfono, pare un pezzo di moneta sempre. Sì, adesso l'ho preparato tutto. Una volta dentro la busta la cambiamo direttamente le connessioni, visto che c'è il test del Gigi, c'è quello elettronico. La cambiamo direttamente le connessioni. Non ti esce il microfono, quello nuovo piccolo cosa esce, ma santo esce forte. Figa mia, speriamo che ci sia molto più danno di quello che si pensa, speriamo. Ti sto parlando con te, sto lavorando io. Ho già fatto la pista, ho già salvato la pista, non c'è del rumore sempre, ho già salvato la pista, è interrotta con un po', ho preso la lente e gliel'ho aggiunta, e adesso c'è l'alimentazione anche sulla piastra, praticamente il circuito non è più interrotto, è interrotto da quella pista. Però l'ho visto con la lente, con gli occhiali no, non si vedeva. L'ho messo per il ristagno, gliel'ho tirato giusto giusto e adesso va bene. Quindi secondo me neanche il circuito è interrotto più. Perché adesso c'è continuità anche nel circuito, senza batteria, senza alimentazione. L'alimentazione mi dà direttamente 9 volte dall'interruttore, quindi accendi e spegni, perciò non è più interrotto. Adesso si tratta di cambiare la connessione, mettere la batteria e provarlo, e vedere come si comporta. Via, via. Capo del rocio. Sì. Già va bene, Tra l'altro, parlando del fatto circuito, già va bene, vabbè, saperne fare certe cose piacerebbe anche a me, la verità è. Però non è con la mia competenza, non ci metto le mani, purtroppo così. Tu non conosci il tester, se lo conosci, non è che ci voglia molto. Sì, qua facevamo assieme. La cosa che avevi visto nei circuiti stampati che hanno quelle strisce che collegano un circuitino all'altro, no, quelle sono strisce di stagno che si collegano una all'altra e poi ci sono i buchettini dove sono i componenti, da un transistor all'altro, una resistenza all'altra, e lo raddoppio da dove c'è il transistor all'alimentazione a dove c'è l'ingresso dell'alimentazione del BTT interrotto. Ci mancava un pezzettino di stagno, la saldatura fredda, quindi l'ho aggiunta e adesso accende e spegne tranquillamente, prima non accendeva, non spegneva. Quei fili li ho tutti eliminati, gli ho saldato la piastrina porta batteria come quella che c'hai, come quella che abbiamo attaccato la batteria 9 volte, uguale a quella lì, ed è pronto all'uso, c'è solo a cambiare le connessioni adesso. Dopo lo chiudo, tutto pulito dentro, hanno giugato tutti i cibesi in atrosolante, tutti i sergentori in atrosolante che vedo, li ho salvati tutti a stagno. Gappa, gappa, così si fa il lavoro, allora. Il lavoro di fare un certo criterio, no, mezzo di due pezzi di filo, un altro di volta a destra, a sinistra, catapaglia, a centrale di cose, sul microfono, no, è fatto male, ma male, male, male, male. era fatto male. Adesso ti va bene. Quello piace a me ti va bene. Non deve buono, controllato è perfetto. Va benissimo, è anche morbido. C'è la pulire quel piantone della base, lo pulisco bene con l'acciaio, lo faccio lucido, normale. E poi lo porto appresso, così visto che abbiamo in testa quello elettrico, quello elettronico, cambiamo le connessioni anche lì. E qui si prova direttamente, visto che abbiamo il baracchino appresso. Sì, va bene così. Conviene direttamente provarlo con l'apparato direttamente e vedere un po' se va. Sì, glielo facciamo andare, ti preoccupare. All'interno adesso è a posto. Se non c'è qualche altro problema da qualche altra parte, così magari mi è sfuggito, ma mi può essere sfuggito qualche componente, ti ripeto, se c'è qualche componente in perdita, può essere solo quello il problema, è una cazzata. Si stacca, si compra da fusaro e si piazza, si mettono nuovi, sia il transistor sia le due resistenze. Poi visto c'è anche uno di quei condensatori piccoli, che deve essere per il carico dell'alimentazione, perché quando stacchi lo spegni la luce tarda a spegnersi, e quello lì è il carico proprio dell'alimentazione. Quindi li vediamo col test elettronico, che ti ripeto il mio, ma dice lancette, non è molto preciso, e così di quei piccolini ho trovato una cassetta di quelli piccolini, no? Quello elettronico come quello rigido c'è un'altra macchina, ma domani già andiamo da lui e così si controlla lui quel cavettino che ha fatto, che c'ha tutti i numeri e i colori, facciamo prima. Ma tanto, caspita, tu scendi, mi fa piacere, stiamo un'oretta assieme, lo vediamo assieme. E così faremo. Così faremo senz'altro. Tu quando ci lavoro passa direttamente qua, io ti aspetto qua. Metti la moto dentro oggi e scendiamo in macchina. Andiamo alla furgonetta. Amico ci minaccia pure lui, si antenna. L'occasione è buona per salire anche con l'antenna, così gliela tolgo a mezzo ai piedi e me la metto in massaggio con l'antenna e quel tubo, visto che c'è la furgonetta. Sì, come è la proprietà, se si scende la furgonetta si carica anche con l'antenna, si te la porti su e ce l'hai a casa, diciamo, Sì, posso metterla giù in garage, in via Pascoli, o posso metterla anche qua in mansarda, non c'è problema. Così la conserviamo, si vedrà dopo cosa fare con l'antenna, si vedrà cosa fare, noi dobbiamo stemare anche quell'altro discorso là, quello dell'LPD, noi però lo vediamo con calma, quello adesso sistemiamo altre radio, se non si accavalla tutta la cosa, no? Non le buchiamo bene. Sì, e io. No, l'unica è sistemare queste cose, poi io abbiamo sistemato le altre, capo noci, già andare. Io, l'ho chiuso, a posto, ecco qua, già pronto, ci ho messo la busta e vediamo, speriamo ci sia qualche problema grosso, perché è un peccato. Comunque a me tutte i passaggi sono buoni, la piastra è buona, le cose buone, l'alimentazione è già pronta, con la batteria l'ho provata e va bene. Così domani facciamo questa cosa anche là. Ok. Qua sta andando tutto bene, sì? Sì, alla grande. Va bene, no. Benissimo. Tutto capatoia di lusso. Visto quello che la differenza eccetera, 4.30 al 4.40, hai visto dove vicino? Bellissimo. Ciala è nato prima di questo qua, però c'è un modulatore che è uno spettacolo, c'è una ricezione allucinante, vanno molto bene le radio, ma ci picchiava. Lavorata una volta, poi mi devo mettere tutto, ma si piglia. Vabbè. Invece quella che c'è in alto, quella su, quella è gemella di quella Cialuca. A quella argentata, così. Quella è gemella di quella Cialuca. È simile a quella che c'è sotto, no? Questa che sto usando io adesso. Però un pochino più piccola. E quella lì è quella con la Cialuca. È bella, è bella, sì. Una bella radiolina quella. A me fa tutto, non hai bisogno di nulla. Non hai bisogno di niente. A proposito, non si è sentito confuso oggi. Stato sempre con gli animali. A dire la verità l'ho sentito. È vero, l'ho sentito ieri, mi sembra, sì, ieri, però oggi non ho sentito per niente. Oh, io già lo sento anch'io, è entrato 10 minuti, poi mi ha detto aspetta un attimo, sto tornando subito, boh, si è attaccato in culo, non ho bisogno di più. Abbinami. Una scena, cazzo, una scena. Non devi vivere da sempre, aspettato non subito, boh, si belli. Sì, è più forte di lui, guardi, è più forte di lui, con Bruno, purtroppo, deve averla, ma non me la va. E vabbè, gari esce, non ce la devi fare. Vabbè, pazienza, c'è chi piace. Io ho un periodo così lo stesso e per carità poi ho detto basta, non mi interessa più. E adesso sono più a casa che altro. Giusto quando esco così in compagnia, ma no, non ne sto più approfittando, non ne ho più approfittato di niente. Di nulla. Sono anche più calmo, più rilassato. E 10:20 sono, mi sa che chiudiamo così. Prima che quel piano mi faccio la barba, una bella doccetta. Mi rinfresco un po'. E poi me ne vado a mano. Comunque, rimaniamo d'accordo così domani, intanto non ci vediamo al caffè perché forse devo andare a prendere il mio collega porto alle 7:30, se non faccio tardi. Quindi rimaniamo d'accordo che ci vediamo domani sera quando esce a lavorare. Vieni direttamente qua. Io ti aspetto qua, prendiamo la roba e scendiamo direttamente a Luigi, ok? D'accordo, padre. Ok, ma rimaniamo d'accordo così, io appena esco dal parco vengo direttamente a casa tua, dai, così scendiamo da Gigino e vediamo di sistemare il tutto. Va bene, dai, ti auguro buonanotte, buon tutto, a te, guerra familiare, e tutto buon pomeriggio. Ciao, padre, buonanotte. Grazie alla compagnia, ci sentiamo e ci vediamo domani allora. Per qualsiasi problema fammi uno squillo, capito? Ok, va bene. Ciao, buonanotte. Ciao. Ciao. Ciao, grazie.